Sembra impossibile, ma l'ho vista saltare, cadere giù. Credo volesse volare, oppure imparare così per lei. Era il suo numero, la guardavamo a naso in su. I bimbi a coprirsi la testa, con gli occhi sbarrati, che da un profondità. Vedersi lasciarsi al di sopra di noi. Credo volesse fluttuare, nuotare nell'aria finché non sai più chi sei. Credo che fosse